abbiamo fatto ieri assieme. Quindi se ti inizio a dire già, Michele dalla radio a 3,5, l'amplificazione del microfono MBP5 a 7 e i toni a metà. Questo è come lo usiamo sempre e come l'abbiamo regolata ieri. Perfetto, ribadisco, per me stai andando bene, poi dipende da chi ti ascolta, non lo so. Ma io vedevo anche a Sandro, non col suo segnale, non con la solita modulazione, quindi non so che radio sto usando, ma non è magnificamente al 100%. L'ho ascoltato molto meglio in altre occasioni. Comunque, per me stai andando bene. Se il controllo che hai chiesto a me è perfetto, altre cose io non ti posso dire. Ok, va bene, sono qua, vai. Sono qua che sto lavoricchiando, devo consegnare della roba domani al lavoro, me la sto scrivendo in un registro, però vi sto ascoltando, non è che sono qua. Ok, Sandro, perché il microfono, se non esplicitamente chiamato, non rispondo come termino a questa cosa. E io già, va bene, dai. No, lui sta usando, vabbè, quell'8001, quello modificato, quindi, claro, quella radio le aprono, le ricezionano, le toccano, quindi può assicurarsi sia per quello che mi riceve così lui. Adesso vediamo un po' che il tornado è abbastanza selettivo, non è mai stato toccato, voglio vedere se con quello mi ascolta sempre male. Sandro? Capa, ok, dai. Allora, ti ascolto già con una radio molto molto più bella, molto molto più bella. Non so come tu ascolti a me, via avanti. Capa, cioè non avevo dubbi, ti ascolto molto meglio. Adesso all'infuori che sto passando nei colori della colonnina, sto passando tutto aperto, non ho messo né filtri né niente. Ti ascolto molto molto bene, molto bene, amplificato, con acuti, amplificato, sì, no, è l'apparato però la ricezione, ma si vede. Perfetto Alessandro, sei passato quel giorno alla notte? Capo, già lo so, è una scatoletta che non c'è niente, però riguardo diciamo la trasmissione, diciamo che questo mi fa 10-0 però. Guarda, allora sa, l'8001 è una bella radio, completa di tutto, quello che vuoi, però non c'è paragone, guarda, da una radio modificata, una radio questa normale che sta usando, guarda, sei passato, da 1 si è passato a 100, cioè una modulazione molto più bella, molto più corposa e molto più forte, proprio bella, bella, bella, bella. Molto superiore all'altra. Avanti. Modulazione va bene, si sente che è amplificata, si sente che è amplificata e va bene, bella, chiara, limpida. Però con quel macchinà sono sicuro che migliori ancora. Quel macchinà, se trovi il cavetto, se no lo compro questo cavetto, capito? E me lo dai quel microfono, hai capito? Ma lo dai, lo voglio provare a vedere se la cosa cambia qua. Vabbè, diciamo che questo MB+5 è una cosa adattata così al volo, meglio sicuramente di quello palmare, molto sicuramente. Quindi fino a provargli quel microfono lì tengo questo, hai capito? Poi una volta che provo quello sicuramente lo acquisterò. Ormai sono deciso e via. Giampaolo, tu come mi ascolti con questa radio? Ho capito che c'era qualcuno sotto e gira tipo prima, cosa hai detto? Va bene, ok. Vediamo se è rientrato Gianni in Open Room. Gianni, ci sei? Ok, prendo io Gianni, era 7. Ok, dai, va bene. Ok. C'era uno straniero che diceva attento Italia, attento Italia. In Italia è in ascolto, avanti. Andava a comprimere, cosa vuol dire? Forse era troppo. sentito il sottofono Giampaolo, dice che c'è lo Smith del suo apparato che sta girando per la casa. Aspetta un attimino Giampaolo. Mantenilo Giampaolo, mantenilo, non ti preoccupare, già so cosa vedi. Giampa, questo è tuo. comando la Sierra Charlie Sardinia. L'ho perso. Va bene, dai, comunque. Andiamo avanti. Vabbè, signori, ne approfitto, vi saluto, vi lascio. Vi lascio che mi dedico a altre cose, dai. Ciao, Giampa. Ciao, Claudio. Ciao, Massimiliano. Se ci... alle prossime. Ehi, Massimiliano è sceso giù, ha sentito il rumore. Allora, la modulazione la lascio stare così, Sandro, va bene? Va bene, perfetto, va benissimo. Va benissimo. Non ho attenuato niente, sei libero, stai passando libero, libero. Va bene, lascio. Ehi, ho fatto le connessioni giusto per avere un baracchino per fare due chiacchiere. Va bene così, allora, il segnale già sarà buono. Tu sei già. Lo voglia. Lo voglia, e te ne muoce lo blu. Non mi bugnetta. No, faccio io che vuoi bugnetta. Cioè, c'è malato che vuoi bugnetta e voi ci mettiamo. Va bene, va bene. No, mi sto andando col... con questa HB23 che l'ho messo a posto, cambiato lampadine. Paolo, se mi ascolti, sto usando questo baracchino, il primo baracchino, perché l'altro c'è la fabbrica che lo sta riparando. Va benissimo, la grande. Alla grande non ci sono problemi, ottimo per la truppa. E ma dai, neanche un guatto, in mezzo a un guatto mi fai questa cosa, mi sa che sta andando, non di più. Lo sta riparando. E 9 più 20 sì, qua, 9 più 15 più 20, dai. Ti ricordo io sto usando questo baracchino. Già va bene, nessun problema. Importante sentirsi. E l'altro, vabbè, a parte lo smiglio l'ho messo a posto io, ho cambiato la lampadina, ma l'unico problema che ha è i segnali punti, lo dicevo male, male male. Sento che ho un po' che non esce. Eh sì, no, il denguscio è buono, è un peccato, perché il baracchino va bene. Una parte va bene, ma è spostato, ma si sa che i baracchini, quei tipi di baracchini lì, mandano la laterale, fanno cagare. Vabbè. No, io ho i basi che ci avevo, che ho dato, li ho dati tutti a Capri. Sono perfettamente, anche in banda laterale, perfettamente in risonda. Erano già stati tarati, insomma, già stati controllati, capite? Va bene, va bene. Aspetta che spengo questo baracchino e passo con l'altro. Aspetta, lo staccando. Il BV131, va bene. Gianni, doppio root, ci sei? Oh, Fabrizio, ci sei? 21. Ah? Io non venisci un dopo quanto faccio un lettore Fabrizio andare lui che casino, ma dai, guarda che casino, questo calcio lo spiego che ho aperto qua, ho dovuto cambiare connessione per poter usare questo qua, se no un fiacchio nulla nulla, ma boh, non va. 146, 9, 9 più 15, se non avevo sbagliato. Non mi interessa le altre, non ho guardato, non so perché, l'ho aperto, controllato, boh, guarda. Ma se riesco anche se i canali si vedono male, avrà a ridare 3, 4 watt, va bene, c'è anche il finale da cambiare, il 1969, con l'altro accoppiato, me l'aveva arrivato per Polo con la 1. No, la comincia già più di roba. Ecco dove ti fermo, io mi ho fatto tutto qua, mi hanno lasciato la HB23 perché va molto bene, poi non ha interferenze, niente. Soltanto più 3 l'ho messo un angolino e una volta che mi sono trovato a fare uso quello lì. No, Gianni era in radio, però non so, è arrivata gente e si è staccato. C'è anche Giampaolo, Paolo, Alessandro, Massimiliano, sono staccati anche loro, c'è la K2, non sento più nessuno, io sono qua e poi vado richiamando il PC e non sento nessuno. Ah, io lo sentivo là, basso, la usa in Ibari, basso, qua facciamo una ricezione micidiale, solo che se ti sposti tu, facciamo un esempio, parla Fabrizio, parla i segnali più forti, Roberto Quadrato, o Salvatore, qua posso anche spegnere, tranquillamente. Ho ripreso. Ciao Claudio, di nuovo, e Luca, buonasera. Mi senti Massimiliano? Non ti ho per sentire. Sono anch'io, ho fatto questo baracchino, neanche, ma sono fatto. Allora, dico una cosa, ieri ti stavo ascoltando, no? Allora, dopo l'amplificatore di antenna, super i 9.5. È da oggi che uso questo qua, perché non l'ho mai usato. Questo è un era 44, Massimiliano. cioè 34. Non dà più quel tanto di watt, cioè deve dare 3-4 watt suoi, da mezzo watt. Ma comunque io ti ascolto, non c'è problema. Avanti Gianni. Lascia rientrare, sono già andato. Ma ascolta Luca, quella che la palichiatura stavo mettendo a posto stasera, stavo allineando, abbiamo provato in banda laterale, va bene, la modulazione li stavo allineando, tutto qua. Stai giù dalla gabbia. La radio vi si è incendiata. La ripresi qua. E io sto sempre scrivendo qua. Massimiliano, ripresi però, già sono qua in collegazione, non c'è problema. C'è un problema di tempo. No, va molto bene con la radiolina. Cosa ha detto lei, Massimiliano? Un Alan 34, mi sembra aver capito. Prima ha detto un 44, poi si è corretto, ha detto un 34. Alan 34, manco so che bracchino è. Vabbè, pazienza. Ok, un po' a posto. Deve essere di quelli piccolini, di quelli un po' ridotti, dai, quelli che hanno lo squelce, sì, poi hanno il volume, ma sono piccolini, dai, di quelli un po' l'Intec 34S, eccetera, eccetera. Ah, tipo quello che c'è tu, Massimiliano, allora, tipo quello che ho detto io. Sicuramente una cosa del genere. Claro, un'informazione ti devo chiedere, questo cavetto per questo microfono, non so che cavetto sia, ma qua lo vendono, c'è qualcuno che lo vende? E quale ve lo becco? Lo spiralato? E cosa mi gioco? Quel microfono come quello che hai tu, capito? Però mi ha detto che non trova il cavetto, non so per cosa serve questo cavetto. Ah, ma uguale a quello che ho io, la M908, stai dicendo, che ha tre uscite. Sicuramente è quello, per abbinare questa radio, me lo vuole prestare per provarlo se va bene, così poi lo acquisto, capito? Guarda, te l'ho predato volentieri, però neanche a me l'hanno mandato, perché quando compri quel microfono ti mandano tre cavi in dotazione, tutte e tre dello stesso tipo, quindi a me i cavi che mi hanno mandato in dotazione sono tutte e tre della ICOM. Capito? Tutte e tre della ICOM, infatti quel microfono uso solo con le radio ICOM. E poi c'è in dotazione, praticamente devi richiedere, perché quando lo compri sono tre cavetti, però tutti di una marca, o PMW, o ICOM, o IAES, io ho richiesto ICOM. Se tu lo vuoi richiedere il cavettino, costa 7 euro, più che sulla selezione ti verrà 10 euro, ed è il suo cavetto originale che entra nel microfono, quello che ti tratto, e tu riesce col connettore a 8 punte per lo IAES, lo devi specificare però. Quei cavetti ce li ha la Tecnocomunicazioni, capito? Apriti il PC, guarda Tecnocomunicazioni, c'è il numero di telefono, lo chiami e gli dici mi serve il cavetto per la M908, per il microfono da base, quello con l'equalizzatore, ma anche se ti mandano quello senza equalizzatore, le uscite sono uguali, e gli dici per il IAESO 757, capito? Allora te lo mandano già pronto ad attaccare a quello tipo di radio. No, credo che dicevo qua a Sassari, vabbè, qua a Sassari non c'è nessuno che ne ha. Vabbè, Tecnocomunicazione mi ha detto, va bene, dopo ci do uno sguardo a vedere. Così me lo dà questo microfono, lo provo, se va bene poi vediamo un po' cosa costa e lo prenderò. Mi faccio il regalo per Natale, no? Ecco le scuse per di Gianni, allora quel microfono, il 908, quello grande che ho io con l'equalizzatore che è simile all'MC85, che l'hai visto, costa poco più di 100 euro, forse 105-110 euro. Il 908, se non ti serve l'equalizzatore, ti ho detto, se non ti serve equalizzare, eccetera, eccetera, che io l'ho già provato, ti ho detto prendilo perché l'ho già testato io con le mie mani proprio sul 757, ok? Allora, si chiama la V508, non ha l'equalizzatore, è come l'SM20, per farti capire, tipo un MC, tipo un MC60, no, tipo un MC80, uguale l'MC80, flessibile così, però è tutto nero, molto bello, e costa 59 euro con 10 euro di fai mandare già col cavetto pronto per lo IAESU. Tu glielo dici e te lo mandano già col cavetto pronto, al connettore IAESU le dici. E loro te lo fanno, connettore IAESU. Tu Gianni già lo sa, quando ordina i microfoni da Tecnocomunicazione, lui è cliente, le dice lo voglio per la RAN 48, te lo mandano per la RAN 48. Così è già. Oh, un attimino. Cosa c'è nel corso? Laboratorio adesso non lo so. Massimiliano. Oia. Allora ascolta, guarda che quel microfono lì ce l'ha usato, sempre che ci sia ancora, se no vai a guardare, la DAE Telecomunicazioni, Claudio sa già a chi sto riferendo, e ce l'ha usato, lo sta dando via 50 euro. Adesso bisogna vedere se è stato con i cavi. Ah, se mi sta dicendo Claudio che costa 59 euro, 60 euro, nuovo, la V508, lo prendo nuovo. Allora, la V908 non lo paghi 50 euro, minimo lo paghi 100, 100 qualcosa, capito, nuovo. Sì, Sandro, 908, quello che abbiamo noi, quello grande, ma c'è il 508, quello senza equalizzatore, che si assomiglia all'MC80, costa 59 euro più 10 euro di spedizione. L'avevo comprato io e poi l'ho venduto assieme ad un HF della Kenwood, però l'avevo provato proprio sul tuo, su praticamente il primo che hai avuto, per capirci, quello che ho io, ok? E funziona che è una meraviglia. Il 908, gliel'ho detto, costa più di 100 euro, però il 508, quello senza equalizzatore, costa 59 euro. Questo non lo so, io solo faccio riferimento al 908. Se poi il 508 l'hai già tassato e l'hai provato e va bene lo stesso. Sì, sono uguali spiccicati, uno c'è la parte dell'equalizzatore col compressore, l'altro invece c'ha solo il PTT, lock, eccetera, e lo strumentino, basta, non c'è altro, capito? Però vanno bene entrambi perché montano la stessa capsula e montano lo stesso circuito di preamplificazione. Addirittura il 508 c'ha il trimerino dietro, come l'80 e l'85, che poi aumentare anche la preamplificazione, va bene? Ehi, caparazzi, non lo conosco. Il 508 non lo conosco. Va bene, dai, se l'hai tassato, l'hai provato, e vedete, va bene. Va bene, dai, ti lascio, corri, ti ascolto la parte mia, riprendi la sveglia. Diapositivo, scusate un secondo, c'è mia moglie che sta dicendo ancora, riprendi Gianni. Io cosa ti sta dicendo? Daniele, compare già Viro, mamma mia, non perché stai lì, compraglielo e basta. Stai lì, ti è molla, compraglielo e fai il regalo per Natale al ragazzo, aiuto. Glielo compro, questo sfoggiamento. Ah, ma Daniele, così ti voglio sentire, decisa Daniele, non sai in chi vi tira e molla, va bene, ma ci vediamo. Ordinalo subito, 59 euro, aiuto, fatta Positivo, allora infatti mi stavo ascoltando, stavo ascoltando i vostri pareri, 6908 o 508, però siccome la voglio far risparmiare, sicuramente prenderò 508. Stai tranquillo che l'ha tassato zio Claudio, fidati, bellissimo metro, vai a vedertelo su internet, e su Google e scriviti microfono AV attaccato 508 e ti dà la fotografia. È della serie Oxin e praticamente lo fa l'Adonis, come facevano i mentatori. C'è qualcuno che c'ha la portante sotto di te, l'ha capito? No, aspetta. Scusa, c'ho l'MC60 io che mi fa un difetto che non riesco a trovare, ogni tanto manca del radio. Beh, infatti stavo uscendo, cioè di segnale, però con la radio bassissima, credo che c'era qualcuno con la portante sotto. No, non ho fatto del male a nessuno, io non ce n'è portante, non ho il mio microfono, che ho fatto non usarlo, anche questo sta dicendo aprimi e controllami, infatti poi lo apro e espulso un pochino di quel prodotto. Ti stavo dicendo, Massimiliano, praticamente lo fa la Oxin, però la casa costruttrice è la Adonis, che è una grandissima casa costruttrice di microfoni. Come se vi ricordate, erano usciti gli alimentatori switching della Nissei e ricostruiva la Daiwa, capito? La stessa cosa. Quindi se tu vai a vedere sul PC AV508 microfono a tavolo, ti dà si assomiglia ad Adonis, perché se poi tu vai a vedere l'altra pagina e clicchi microfono Adonis 508, sono uguali, precisi e identici, capito? Gianni, riprendi. Sì, ho capito, no. Dopo ci vado al controllo, comunque c'è qualcuno sotto, tranquillo. Non lo so, io non vedevo niente, se c'è qualcuno sotto che disturba non ci sono problemi. Rimango ancora lì, ci dai Massimiliano, già ci sentiamo in altre occasioni. Sono qua che sto facendo e sono entrato per dirti questa cosa. Prendilo pure tranquillamente, perché su quella radio io l'ho già testato e è un buonissimo microfono, c'è un'ottima modulazione, un'ottima amplificazione, poi chiaramente se non ti serve equalizzare usi quello, se poi vuoi equalizzare la modulazione, ma credo che non ne hai assolutamente bisogno, allora ti prendi il 908, però sappi che il 508 dietro c'è un trimerino dove ti puoi sollevare la preamplificazione, mentre il 908 no. Ah, positivo. E dopo facendo il PC lo controllo a vedere com'è. Capito? Dopo lo guardo qua. Così mi rendo conto che differenza hanno 908 e 508, ma se mi stai dicendo così, no, non ho bisogno di amplificare niente, capito? Cosa me ne affrutti? Va bene così. No, è perché voglio togliere questo MP5, mi serve su un'altra radio, hai capito? E quindi questo qua le voglio prendere un microfono un po' superiore, diciamo. No, va bene. Sì, l'ho vista adesso con l'altra radio accesa, con il polo, ho visto la portante sopra, ma comunque non fa una grinta, non ci sono problemi. No, prendilo Massimiliano, tranquillo, perché funziona molto molto bene, capito? Sì, positivo. Ma cosa vuoi fare? Vuoi pure la portante anche a 9.40 qui? Boh, io l'ho compreso. Va bene. Sì, claro. Mi faccio un regalo per Natale, va. Mi faccio un bel regalo per Natale, sì. Gianni da Pierucci, sì. Certo, dove ci sono, Massimiliano. E cosa ti devo regalare per Natale? Oh! Ma mi senti? Ti sei andato. Parla al telefono, ha chiamato Daniele. No, per vedere se mi sentivi già. Io ti sento bene. Ho detto che Fabrizio ti ha messo aggiustato un tuo apparato che praticamente te l'ha allineato, ci ha mandato in mando laterale a provarlo. Ne sentivi? No, c'è un microfono. Sentivo degli sbatti, non sapevo dove. Scusa, qua c'è il canale messi male. Se tu giri la 5 è giusta, se tu giri la vola in arabo, l'altro vola in francese. E niente, dai. No, non posso rispondere adesso perché ero al cellulare già. Qua già sono rientrato, mi sto spostando con una luce e poi dietro, dai. Comunque è una buona notizia, perché la banda laterale non è riuscito nessuno ad aggiustare con la parete. No, se lo va, la mette, va bene. Sì, sente bene. Era leggermente praticamente spostato sulla destra, ma un piccolo intendio, non so se dipende da me o da te. Boh, non so già. Quella parecchio lì ce l'avevi tu e mi avevi detto che era spostato, non era, cioè, non andava in banda. E niente, va pure. La faccio veloce, 10 minuti, cazzo, ma un freddo qui su maggio, mamma mia. Brecco. Dillomi. Avanti Fabri. E allora, ciao Luca. Io ti ascolto bene, poi non lo so. E allora, questo è l'apparecchio tuo, sto usando un microfono normale, non è amplificato, niente, gli ho fatto un po' di allineamento perché era un po' fuori da qualche parte, soprattutto in banda. Per il resto non era così disallineato, gli ho leggermente sollevato poco il vate perché era un pochettino lì, però per il resto va bene. L'unico problema è fatto che in ricezione non c'ha l'audio chiaro. Per esempio, se ti parla Claudio, tu come lo ricevi? Io lo ricevo male da qua, anche a te. A Gianni si attacca, lo sento male, ma se usa i vatti pochi, dice i vatti normali, lo sento bene. Tipo Salvatore, lo sento malissimo, ma male. Invece se con questo ti ascolto bene, perciò è un problema di ricezione. Sì, no, ma io adesso su quello, per non sbagliare, la prima cosa, io ho tolto l'integrato, no? Adesso ce l'ho rimesso, e gli ho messo lo zoccolo, capito? Gli ho messo lo zoccolo e sopra ci metti, perché quando metti l'integrato è sempre mettere uno zoccolo, perché sennò così rischi di scaldarlo, lì, glielo rimesso dentro, quindi un attimo, lunedì lo prende, poi trac, glielo sbatto dentro e vediamo se fa quel difetto, perché in genere è la GT che lo fa, capito? Praticamente non riesce a regolare i segnali forti, li fa arrivare tutti quanti incasinati. E quello lì lo fa quell'integrato. Il 99% deve essere per forza quello, perché vabbè, l'ho visto di peggio, questo non è così esagerato, infatti è strano. Ascolta, questo volevo dire, fai parlare a Claudio, visto che Claudio siete vicini, e vedi un po' come lo dici, ah, tutto le repeghi non te ne hanno attenuato, perché se la attenui lo senti chiaro chiaro, invece se tu lo apri tutto, non è chiaro, si sente che sembra che sia attaccato di. Ma non so, è strana. Fallo parlare, vai Claudio, fa un passaggio a vedere. Fabrizio è 9:40, la radio è perfetta, non lo so. Io sto andando col DS-140, come mi ascolti, Fabio, bene? Ah, io ti ascolto bene, questo grande difetto non lo trovo, però comunque glielo, ormai ho montato lo zoccolino, gli cambio questo qui, in effetti un po' può dare l'impressione, e via. Chi è che ha le bande laterali? Tutti ce le abbiamo, ciao Fabio, buonasera. Oh, ciao, buonasera, ben sentito. Spostiamoci in banda laterale in USB e facciamo un po' di prove, così lo provo in banda laterale questo apparecchio. Spostiamoci un po' con i cari perché è un baracchino, però questo adesso lo praticamente è centratissimo, perché l'ho fatto anche con un amico, e quindi questo è abbastanza giusto. Lo passo in banda, dai, partiamo così vediamo come usciamo, soprattutto questo qua, centratevi a me. Io mi accetto, dai, ci sentiamo dopo, fate le prove, arrivo su USB. USB, dai. Vabbè, se volevo vedere se si è centrato. Ma vabbè, se è stato fatto con l'analizzatore di spettro, quindi è perfetto. È sempre un baracchino, però comunque adesso va bene, per un po' centriamoci con Clari perché abbiamo tutti i baracchini. Mi sto spostando, Vai, vai, vai Gianni. Microfono, adesso canto un po' più di luce, entrate tutti quanti, venite, se sto scendendo 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, i 3 per 7, 27, i 2 riporto 29. Allora, scendiamo là, controllo prima io ho detto ricevendo, 27, 0, 15, decimale, 0, 0, per me sei centratissimo. Mi hai capito? Sì, affermativo, io vabbè, che poi in effetti sul clarifero anche io leggermente spostato, perché vabbè, ma non fui, questo c'ha un fine corsa strano, dai, che io poi con qualche d'un altro avanti. Allora, io ti sto ricevendo, 27.0, 14.8. Ma adesso mi sono leggermente spostato. Sono leggermente spostato io col clarifer, ma di poco, è normale con i baracchini, qui c'è, non puoi fare una centratura perché non c'è un fine corsa che si blocca, è un potenziometro. No, no, ma non lavorare col baracchino, lavoralo con l'HS c'è a 27.015.00, col baracchino per forza c'è appena appena di differenza, perché Gianni è quello che hai parlato adesso, tu sei. Allora, io sono Fabrizio in questo momento. Dovrei essere centrato, credo, perché poi credo che questo fine corsa forse faccia solamente la ricezione e la trasmissione no. E io quindi in trasmissione dovrei essere, credo, centrato, perché ho fatto le prove con l'analizzatore di spettro, quindi dovrebbe essere giusto. Ok Gianni, tu sei adesso Fabri, per me fai benissimo, perché io sto usando la HS6 decimale 00. Vieni avanti Gianni. Appagata. Ah, che tu sei a posto, decimale 00, Massimiliano. No, anche io l'ascolto bene, dai, tranquillamente bene. Non so come voi ascoltate a me qua, Tutto bene, beh, io vi ascolto più o meno tutti bene, tutti bene, belli centrati. Adesso che siamo in banda con i baracchini, io per me va bene. Qui Gianni, tutti quelli che sono entrati per me vanno bene. Datemi un controllino, se io sto andando bene, vuol dire che così è a posto, quindi Gianni tu mi dici che questo ha sempre avuto il problema, adesso dovrebbe essere risolto. Per me siete a posto, Massimiliano, una bomba G, anche Gianni è perfetto, è decimale 00, Fabri anche tu sei 00, quindi se fai le prove con gli HF, ma poi sento Gianni anche bello centrato, quindi è perfetto. Ok, dimmi una cosa, cambia qui la musica, la radio, com'è? La gente sia una bomba, cioè siete una bomba, una cannonata, stai usando una bellissima radio, te l'ho già detto, a prescindere dal microfono che poi è una tua scelta, però ti sto dicendo che quel microfono picchia forte in banda laterale, anche in AM va molto bene, e anche in FM. Positivo, dai, positivo. Ah, poi vedo dei ticchi allucinanti, dai. Va bene, doppio ru, vieni avanti, voglio sentirti qua, vedere come sei. Cala, cala, guarda, vediamo un pochettino, ma mi ascolti, aspetta. No, io ti ascolto perfettamente bene, dai, centrato al 100%. 9,40 qua, sì, Claudio è oltre 9,40, invece Fabrizio c'ha picchi di 9,30, tutto bene. Ok, allora riprendo io, va bene, no, perché gli ho fatto anche, no, qui gli ho fatto adesso anche la serratura dello Smith, ce l'ho fatta col generatore, gli ho dato quello che ci voleva e quindi dovrebbe essere giusto. Sì, no, va bene, io mi sento tutti bene, se mi senti bene il problema l'abbiamo risolto. Bene, va Fabri, lascia tutto voi che andrà benissimo, va benissimo, siete tutti centrati. Chi era l'altro a Porto Torres avanti? Aspetta qualcuno che chiama. Attenzione, se ascolti la Sassari, la città di Sassari, qui è Fabrizio che ti cordializza, l'operatore Fabrizio, avanti. Sta chiamando, però magari a me non mi sente sotto, adesso sta uscendo e di picco magari 20 watt. Andavè, anche tu già fa tutto a posto, dai, passate una M. Io sono tornato in AM. Anch'io sono tornato in AM, non c'è problema, va benissimo alla grande. Per tutti siete tutti centrati e andate magnificamente tutti bene. Ma vi volevo chiedere una cortesia, se è possibile, no, senza portare nessuno. Possiamo passare nel canale 10? Perché qua sento delle modulazioni lontane, evidentemente c'è qualche QSO in qualche paese distante da Sassari, magari io disturbo. Se mi fate questa cortesia. Vabbè, andiamo al 10. Così sono io, dai. Dai, aspetta, scusate che ero sotto al processore. Ah, sono attaccato al processore. Gianni, vieni avanti. Gianni. Senti, ma una radio, ma la laterale è allucinante, ecco. E me l'hanno detto, ma la laterale è col 140, devo attaccare il processore io, perché c'è una potenza allucinante. No, una potenza allucinante, guardate, quando lo trasmette con 10 metri, Marco mi dice sempre di staccare il processore perché c'è una timbrezza che fa paura. Questa, di tutte le radio che ho avuto io, è la migliore in assoluto, nel senso che è riuscita alla grande. L'unico lavoro abbiamo fatto con Fabrizio, abbiamo sostituito la scheda dei relè di cambio di banda praticamente, perché ce n'era uno interrotto e abbiamo messo la scheda direttamente nuova, ma questo 140 è quello che io ho comprato da Gianni Rocky Room, che praticamente aveva dato prima, o l'ho dato io prima a Gigi, adesso mi ricordo, comunque questo è quello che io abbiamo comprato da Gianni, e credetemi, non perché sia Gianni presente, ma non mi ha mai fatto un difetto, mai, dico assolutamente mai. Ero in via Pascoli, ho perso un 3-4 anni. Ti ricordi quanti anni fa l'hai comprato Gianni, 140 tu? Saranno 3-4 anni. Io da quando l'ho avuto io, praticamente l'unica cosa che ho fatto, ma è una cosa che può succedere, si è interrotto un relè di commutazione, quindi praticamente non andava in 10 metri, quindi dice anche la 27, perciò non commutava la banda dei 10 metri, ne avevo un altro da rottamare, con Fabrizio abbiamo cambiato direttamente la scheda, che tutti e quattro viti, nessun altro lavoro, tanto è vero, come l'abbiamo riacceso, ha funzionato immediatamente perché non c'era altro da fare e non mi ha mai dato un problema, mai, è veramente eccezionale questo 140 Gianni, e sarà l'unica radio che non uscirà mai da qua perché va sempre bene. Avanti Fabi. Ok, dai, riprendo io e passo in QRT, sono le 7:30 e sono stato il giorno qua giocando, facendo una cosa o l'altra con questo apparecchiettino qua, poi sto facendo altro, quindi mi sposto che vado dai bambini che sta per arrivare mia moglie e mangeremo pure, dai. E ci sentiamo dopo, poi boh, io questo grosso difetto non lo sto riscontrando, un po' leggero, ma poi c'è una saturazione. Perché per il resto ho fatto quello che dovevo allineare, soprattutto il ricevitore, quindi boh, strano. Boh, vabbè, ci sentiamo dopo, dai, qualche watt in più tira fuori adesso, dai. Va. Positivo, ciao Fabri, buona cena, quando la farai, buona continuazione serata, ci sentiamo. Vai Claudio. D'accordo, ciao Fabri, ci sentiamo magari più tardi se qui ci vedrà, già sono... qua in ascolto sul 10, non sentivo una modulazione bassa sul 5, magari da qualche paese qua vicino, non so, lontano, uso quelle domeniche, quindi magari disturbavo, allora gli ho chiesto la cortesia a passare qua, va bene, avanti Gian. Io infatti non ho capito perché adesso si è preso di punta questo canale 5, poi si potrebbe tranquillamente stare nel 10, capito? Io entro poco quando sento qualcuno, insomma mi va di fare due chiacchiere, entro tranquillamente, sono entrato per chiedere i controlli sul 5, gli altri canali non c'è nessuno, quindi non so che uso ce ne sia, perciò non so niente, evidentemente è una decisione che è stata presa, io quando c'è gente mi sporco perché non voglio avere rotture di scatola, sapete che da quassù io sento tutti e quindi magari pensano che sono lì per rompere le scatole alla gente, e allora mi sposto, va bene, avanti Gianni, avvisaci. Sta capo la scena, ma se non servono i calcolti, non so come stia andando, perché sono un po' che non usi, non lo tanto, scusate, come se no, non lo tanto. Appena la cosa devi abbassare i watti già, che sei troppo alto. Cavagalo. Sì, anche da me qua stava un po' pressata la modulazione. Mi guardate così adesso come va, 1, 2, 3, prova. Bomba. Cava. In questo caso mi devo mettere il microfono come quello che si è messo Gianluca il produttore. Se è un microfono normale della Static, c'è una bomba il microfono, sembra amplificato. Oh, Meco. Guarda. Ascolta, io ho la possibilità, guarda, da questo passaggio qua, scusate, ma aspetta. Questo passaggio qua, da adesso ho aumentato un po' il segnale, giusto? Un pochino, io non lo noto. Vai Gianni, segui a Fabrizio, vai. Dai Fabri, prova, perché non stavo guardando, dico la verità. E noi già siamo vicini, prova. Cosa gli dico a Fabrizio, ma arriva a fare uno scala qua. Allora, io lo posso dire io che sono più lontano. Fai da 9:20 a 9:22. Allora aspetta. 10 e 18 modulati. Poi gli potrei, 8-9 watt in più glieli posso dare, però non so se li vuole Luca, non so se vuole l'apparecchio, perché questo in confronto a quello che avevo io non c'ha la regolazione del il TAR, non c'ha questo apparecchio, mentre l'altro c'è pure dentro, c'ha due trimmer praticamente, uno gli dà il minimo e il massimo, no? E poi col potenziometro lo regoli, questo c'era, però stranamente non vedo il TAR, forse mi sbaglio. Se separando il telefono non ce l'ha il car, non è uguale alla, facendo creare un fondo scala, Claudio. Si muove appena appena di un pedino, ma proprio risolvere la cosa, capisco. No, è molto, molto forte la modulazione. Lo sai Fabri che quando siamo andati via a casa tua stamattina siamo passati dalla chiesa di San Vincenzo di fronte e c'erano due carabinieri con un tipo con le manette di Nera Libuceta. E hanno fatto bene, vuol dire che ha fatto da cattivo. Magari era pure in incisa, perché sono usciti dalla chiesa. Oh, può darci pure, se che chiudo qua, domani gli metto l'integrante e lo proviamo. Sì, comunque là, esce che io vado, volevo fare questa prova, boh, non lo so, lasciare la manetta non fa, per i 20 watt di uscita, lo lasciamo a 10, là. 10. E di picco, vabbè, non si può fare altro, non si poteva aumentare, però non avendo il car non fa a farlo uscire sempre al massimo della potenza, boh. Ti do un potenziometro e le fai la regolazione dei watt, te lo metti dietro. Già, qui ci stavo pensando, va. Io ce l'avevo, no, così, con la regolazione, mi pare che l'avevo vista, ma ci vedeva. No, già, sono entrati a rubare, li hanno presi, al mattatoio vecchio lì, di via Zaffarino, capito? Vabbè, corretti da parte mia, dai, continuate, grazie. No, da poco fa devo chiudere, solo volevo fare quest'ultima prova, capito? Devo fare un paio di cose con i bimbi. Va bene, d'accordo, d'accordo, già siamo qua, dai. Avanti Gianni. Ciao Fabri, buona serata, dai, buona continuazione, sentiamo le prussie. Saranno le stesse persone che hanno rubato in questa mattatura di Trucco Reale. Sicuramente. Gli hanno presi, capito? Ogni tanto mi allontano perché c'è mia moglie che non sta molto bene, è sdraiata, mezzo influenzata, aspetta il telefono Massimiliano. Ehi, tranquillo, positivo. Gianni, tu non mi ascolti con questa radio? Mi ascolti bene? Proprio lui. Ehi, K. Diciamo che stavo guardando mi l'occhio perché c'è una cosa dentro, aspetta un secondo. Prendi clac. È al telefono Gianni, è al telefono. Perché mia moglie ha visto una cosa nell'occhio che c'avevo. Cos'è? La lente a contatto che sono niente di strano. Gava. No, ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto se tu mi ascolti bene con questa radio. Sì, che ti ascolto bene, ma qual è quella che hai aggiustato Massimiliano? Sì, positivo. Sto andando esattamente con 10 watt scarsi e c'ha 50 di picco. E sei quasi 9,30 Massimiliano, sei quasi 9,30. Manca un pedino 9,30, va benissimo, non c'è problema. L'ha aggiustata bene, senza ombra di dubbio. Ma i finali che c'erano prima, diciamo che secondo me erano già belli che andati, perché con 10 watt così di portante bianca mi dava intorno ai 25-30 modulati. Adesso con 10 watt me ne dà oltre 50, se ti fidi, modulati, parlo. Quindi vabbè, adesso sono al 100%, non la sto tirando neanche più di tanto, vanno bene 10 watt così per parlare in città. No, dicevo che mi faccio un regalo, dai, per Natale mi prendo quel microfono là. Appagato. Se va bene, è una bella radio, si sente bene la modulazione tutta, non è... non si capisce manco che radio è, dai, dico la verità, però è bella la modulazione e va bene. Però ti volevo dire, dove lo prendi questo microfono, dove lo compri? Lo guardo, mi ha detto qua, guarda il Tecnocomunicazioni che dice che ce l'ha. Io ho visto uno bel bello di microfono, signora, se lo vedete nei muri, è tutto cromato nella statica. L'unica cosa che c'è che rimane dritto, tipo quelli della Rai di una volta, ce li presenti quei microfoni antichi? Ma non è palmare, no? No, la stazione è base. Cazzo, ma è bello, mi costa, mi pare 89 euro, ma è molto bello, c'è la capsula ceramica statica, una capsula ceramica, dice che c'è la modulazione perfetta, visto e considerato la capsula ceramica, eccetera, eccetera. Adesso che cosa abbiamo per il S98, l'S89, là. E so che cosa guidarmi, non so se me lo prendo adesso, però mi piace, ho paura però che mi inneschi. No, non fare lo sbaglio di montare una capsula ceramica sulla radio, su quella lì, perché ti innesca, hai detto bene, sempre capsula dinamica con la radio a PLL, già. Le capsule ceramiche vanno bene sugli HF. Beh, il Tele più 3 qua è la ceramica, eppure vabbè, anche su altri circuiti per aereo, ho sentito, montate vanno bene. No, è questo apparecchio che è già troppo spinto sicuramente, quindi se rimonti certe cose, certi microfoni innesca. Oh già. Allora, secondo me tu c'hai un bel microfono da abbinare in quella radio. Tu mi sembra che avevi uno shooter, mi sembra, perché non le metti quello? Lo shooter è un bel potente e questa radio qua, per provare con lo shooter, praticamente bisogna chiuderli tutto quanto alla potenza, perché se tu lo lasci al massimo della potenza ti dai fatto, ma ti innesca. Si deve chiudere l'eco e li deve chiudere anche l'amplificazione microfonica, quindi è inutile che tu ci abbi tutte queste funzioni per poi non usarle. Massimiliano, è un controsenso. A me mi piace usare tutto quello che ha l'apparato e farlo sentire. Posso anche provare, c'è lo stesso attacco intanto, non c'è molto da fare, c'è lo stesso attacco perché va bene per il coso, per il Galaxy, quindi va bene anche per il coso, per l'S98. Voi ti dico la mia, io sull'S9, io l'ho avuto l'S9. S9 e 980, comunque va bene, la versione nuova. Sì, vabbè, ma diciamo che il prodotto non cambia, cambia la figura un po' esteticamente, la potenza eccetera, però il circuito è sempre quello. Allora, il microfono che va bene a quella radio, sai qual è? È il Savelta. Savelta Plus, tu lo tieni a poco più di neanche a metà, tenendo tutto quello che c'ha la radio senza nessuna chiusura, col secondo attacco, però quello che c'ha laterale, non quello che c'ha centrale, e poi mi darà la risposta. Per quanto riguarda le capsule del Turner, io di Turner ne ho 4, ma se non li ho visti, c'è addirittura quello della linea, che è il Turner più 2, preciso identico, però anziché essere celeste, è tutto cromato in acciaio. Tutto cromato in acciaio, anche la vettina, della linea valvolare. Poi c'ho un Turner più 3 che è su Pacific e altri due che sono praticamente sempre di linea, però non sono più amplificati e montano tutti uguali. La capsula rivestita in ceramica, Gianni, la capsula rivestita in ceramica del Turner più 3, ma l'interno, il preamplificatore della capsula è dinamico, tanto è vero che ha quella preamplificazione molto alta, cioè la tonalità molto acuta, perché è una doppia capsula rivestita in ceramica come la fare il puntale dinamico, capite? E con quella non fischierai mai, se invece prendi un tipo di microfono tipo HF come quello che stavi dicendo, a frontalino dritto, col pennellone così chiamato, quelli sicuramente fischiano, perché a me mi fischiava l'MD200 con la radio che avevo, e quello dritto della Yaesu, capito? Quindi se vuoi un consiglio, un bel Savelta su quella radio lì, ma te ne leccherai le dita, guarda. Qua, c'è il microfono molto bello, c'è Luca il produttore, si è collegato al Magnum S9 ed è quello della Static, ce l'è presente quello che è Red Devil, cioè Diavolo Rosso, tradotto in italiano. Non è quello lì, ma è quello cromato che ha il cavo, come per intenderci, il tubo della doccia, e della doccia della, della vasca da bagno, così tutto girato così. È un microfono che si adatta perfettamente a quel baracchino, esce forte come se fosse amplificato, una cosa allucinante. Ho già, ora io quel microfono ce l'ho avuto e forse Claudio l'ho anche sentito, me l'ha prestato Giovannino l'originale, quel microfono che dici tu, che c'ha il tubo, il cavo come il tubo della doccia. Lui c'ha la retina cromata davanti, il PTT è tutto cromato e non è questo grande microfono, cioè perlomeno nel brutto non è bella la radio, forse Claudio l'ha anche sentito. Io ho sentito a Gianluca, infatti ho detto se aveva l'amplificata, ma no, già c'è il solito microfono, l'avevo già visto. L'unica cosa che c'è è che è molto lungo il cavo, perché non si può tirare, capito? È in lunghezza e basta, non è di quelli a molla, non è spiralato. Come quello già, se ti ricordi che aveva Roberto meccanico, te lo ricordi? Quello piatto col cavo a flessibile di gomolo, che le dicevo sempre cose, a prenderlo in giro. È un buon microfono, Massimiliano, è un buon microfono, però dipende sempre, consentitemi di dirlo, perché il sistema è sempre quello, dalla modulazione. Gianni ha una timbrica molto chiara, molto, però non è, è molto alta come corda vocale, e quindi con tutti i microfoni che usa, nonostante vada bene con tutti, ha sempre questa timbrica rispetto ad altri un po' più bassa, perché io mi ricordo quando Gianni usava, per dire, l'MB più 5 col Galaxy inizialmente, o non mi ricordo con che cosa, avendo le tonalità, proprio le regolazioni del tono, tendeva ad avere la modulazione molto più acuta rispetto ad altri microfoni. Quindi per te già ci vorrebbe un microfono che praticamente ha i toni separati, oppure una radio come il Magnum, che praticamente ha già una tonalità molto alta, più tu metti il reverbero dell'eco e ti fa una bella modulazione. Ma infatti la mia voce è questa qua, perché adesso vabbè sono anche coricato, quindi sto parlando a voce bassa eccetera. E comunque in ogni caso questo apparato qua a me mi viene un bel, cioè come apparato è molto bello, solo da un po' che non lo usavo, infatti mi hanno rimproverato, mi hanno detto usalo con l'apparato che se no si scioglie. E adesso stasera l'ho attaccato, visto che adesso sono le ferie e cose, mi posso permettere anche di fare i giochetti. E io sono rientrato alle ferie, però rimarrò dal 23 sino al 6 di gennaio, rientro al 7. Sono rientrato, ho fatto dal 14 al 29. Come stavo dicendo, guarda, più abbinamenti di quelli che ho fatto io già, tu immaginate che io uso il President con l'MC80, il President con l'MC80, ed è come che stai usando un HF a parità di modulazione. Ma tantissimi ne ho fatti esperimenti, tantissimi. Quello che ultimamente è uscito appunto dell'MB più 4 col 140 l'avevo già provato io, ma non solo, il Sadelta col 140, con le radio Kenwood e con l'adattatore, tantissimi microfoni, però dipende sempre dalla radio che stai usando. Certo, se è una radio spinge come l'S9, quindi per dire quelli della Magnum, quelli non so, insomma quelli che hanno una certa spinta di Mickey Gain, è chiaro che il microfono spinge. Se poi lo metti su un baracchino di quelli vecchi che ci io, vedi tu, io ho l'HB23, l'HB23 col Tanner più 3 è una bomba, è a questo livello. Ma perché? Perché l'HB23 c'è una radio come il Tokai 5024, come il Pace dell'era degli anni 70, che hanno il modulatore molto molto spinto, pur non avendo la regolazione del Mickey Gain, quindi hanno già l'aggancio a relè e quindi il PLL ha una certa spinta molto alta, e quindi qualsiasi microfono le metti lavorano bene. Tutto lì è sempre un discorso di abbinamento tra vecchie radio, nuove radio, vecchi microfoni e nuovi microfoni, capito già? Tu prendi Massimiliano sta usando una radio professionale con un MB più 5 ed è uno splendore, va molto molto bene, ma perché? Perché lui ha la tonalità regolabile e quindi cerca di abbinare la modulazione alla spinta del processore della radio. No, esce bene, neanche anch'io. Andava. E vabbè dai, si possono fare tanti abbinamenti, bisogna solo provare, ci vuole un po' di pazienza e cose. Per dire, a casa ogni tanto mi risveglio a fare queste cose qua. A casa c'avevamo un Babbo Natale enorme, si illuminava tutto quanto, ballava, faceva, deve essere Marco, l'ha fatto cadere in terra, e facendo l'alimentazione, il trasformatore, provoca a mettere in un altro e non ballava più, si accendeva e non ballava, e se lo voleva buttare mia moglie, mi sono capitato, siccome gli ha spaccato tutto l'angolo dove c'è, visto che i trasformatori che attaccano direttamente alla presa, si è spaccato l'angolo dove c'è proprio la, come si chiama, la presa, e usciva fuori da tutte barrate, tutte fasciate, ho preso la colla a caldo e gli ho ricostruito il pezzo, preso, poi tutto vulcanizzato bene, tutto gatto, l'attacco e si mette a ballare. Hai visto? E quindi già va bene. Sì, ma si tratta appunto di fare delle prove, anche non magari andando a cambiare il connettore principale del microfono con un adattatore che viene anche meglio, di saldare a fare e provi. Io ho fatto gli abbinamenti tra ICOM e Kenwood, tra Kenwood e ICOM, IAES, insomma tutte le radio che più o meno sono in uso però con diversi microfoni, e ho visto che la modulazione non è che cambiava, c'era quella un po' più alta, quella un po' più bassa. L'abbinamento buono, ad esempio, sul 757 della Iaesio sono quei microfoni tipo Adonis, tipo appunto questo Uxin, questi qua, Massimilia, che io ho già fatto le prove con Sandro, oppure l'abbinamento con MC80, un SM20, Kenwood ICOM col cambio del connettore, ecco. Sono tutti microfoni con una certa spinta che ti permettono di andare molto bene, come stai andando, per carità. Ottima modulazione, ottimo tutto. No, ma tu Gianni, la tua tonalità è quella, anche se cambi, io sono abituato ormai a sentirti con leggero eco, quindi la modulazione è sempre quella, ma anche se tu vai a provare un microfono a tavolo, come hai già provato tempo fa, quando ero un po' più frequente in radio, si entrava un po' di più e si facevano più prove, praticamente la modulazione rimane sempre la tua, l'effetto presente è quella, però hai una preamplificazione buona. Adesso non mi ricordo se avevi provato lo Shure col Galaxy o che cosa avevi provato, però andava molto bene tutto qua. A te Massimiliano. E hai a Claudio, stavo aspettando per rilanciarmi. Mi devo allontanare dalla radio, preparo qualcosina da mangiare, così già sono qua stasera, là, sicuramente. Dai, vi lascio momentaneamente, comunque rimango qua in ascolto, se avete bisogno di me chiamate già entro, dai, rimango in ascolto, gioca, tranquillamente. Dai, continuate voi, ciao Claudio, ciao Gianni e tutti i vari ascoltoni, rimango un attimino in quel Rix. Ciao Massimiliano, ci sentiamo. Dai, cambio stazione qua un attimino, così un po' mi dice che cosa c'ho. Vabbè, vediamo, sono qua. Ciao Massimiliano, saluti a Gaia, ho sentito, un bacio grande. E saluto anche Daniela. Daniela, pone di la mano e lo porto a Puglio, compareggia il microfono. Che voglio vedere. Aveva fatto il capo, sì sì. Sì sì, orologio, sì sì. Compraglielo. Che adesso lo merita Massimiliano, fai la brava. Sentivo, dai. Claro, comunque sono qua, dai, vi ascolto volentieri, ma devo preparare qualcosina, dai. Va bene, d'accordo, sono qua anch'io, dai. Faccio delle prove con Gianni, sono qua. Come ho detto, è prova. A te sono 10. Quindi ho progetto qua. Già? Te sono su 10. Via, sono io, non mi senti? Ma, no, non ti sentivo prima. Ho detto, io se non mi dico che apparato sto uscendo adesso, 1, 3, prova, cambio. Allora, adesso stai uscendo con quello piccolino e l'MV5. Con il Milan. Infatti, non ero sicuro se era l'Ana 48 o l'altro che c'hai. Quello piccolo, l'MV5. Quello tutto pulito questo qua. il 48 monovatto in concessione. Sì, sembra molto bene. Dell'MB più 5, tu c'hai l'MB più 5, no? Il tuo a quanto ce l'hai? Così te la tieni come memoria. Quanto sono i tuoi? Ah, tre sono. Prova a salire a vedere se cambia la tonalità o bisogna chiuderli tutti. Prova a vedere uno per te, uno per te, uno per te. No, cambia, chiudili tutti, mettili a zero e torni. Uno per l'altro, uno per te, uno per te, uno per te. A uno, mettilo a uno. Dico a uno. Per me va bene, anche a uno. Ti smorza un po' la modulazione. Va bene. Mettilo invece. Questa luce dei tuni, aumentali, mettili al massimo, vediamo cosa succede. Così sono al massimo, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così ti aumenta la tonalità, quindi va bene, intermedio, meno, fra metà, insomma, il Mickey Game è tutta manetta, capito? Va bene, questa è la modulazione che io ti avevo sentito una volta quando ero in via Pascoli e ti ho detto che è una bella modulazione. Ma questa qua è a 2, dai, da un mese, proviamo a vedere se va bene.